Terzo anello, ad alta voce, Guerra e pace, di Lev Tolstoi. Nel corso dell'ultima lettura, se ricordate, abbiamo visto precipitare la situazione. Difatti, incontrando a teatro Anatol Kuragin, che è il fratello di Hélène, la moglie di Pierre, Natasha ne resta affascinata. E questi spinge le cose fino al punto di proporle un rapimento. Natasha del resto non sa che egli è già sposato. Fortunatamente, venuta a sapere tutto da Sonia, con la quale Natasha si era confidata, Maria Dmitrievna riesce a sventare il velleitario progetto. Dopodiché, sempre Maria Dmitrievna informa dell'accaduto Pierre e gli chiede di far allontanare da Mosca il cognato. Gli chiede anche di confermare a Natasha la notizia del matrimonio precedente di Anatol, notizia alla quale la ragazza non vuole credere. Alle parole di Pierre, infatti, la povera Natasha ammutolisce e chiede di essere lasciata sola. Pierre si mise a cercare per la città Anatol Kuragin, al pensiero del quale ora tutto il sangue gli affluiva al cuore. Al club tutto andava secondo il solito. I soci, venuti per il pranzo e seduti a gruppi, salutavano Pierre e chiacchieravano delle novità cittadine. Uno dei conoscenti di Pierre, fra i discorsi sul tempo, gli domandò se avesse sentito dire che la Rostova era stata rapita da Kuragin, cosa della quale si parlava in città. Era vero? Pierre, mettendosi a ridere, disse che era una sciocchezza, perché egli veniva proprio allora dai Rostov. Si informò presso tutti di Anatol. Uno gli disse che non era venuto ancora, un altro che doveva pranzare lì. A Pierre sembrava strano vedere quella folla tranquilla, indifferente di persone che non sapevano ciò che accadeva dentro l'anima sua. Anatol quel giorno era a pranzo da Dolokhov e si consigliava con lui sul modo di rimediare a quell'affare che s'era guastato. Gli pareva indispensabile vedere la Rostova. La sera andò dalla sorella per parlare con lei del modo di combinare quell'incontro. Quando Pierre, che aveva girato inutilmente tutta Mosca, tornò a casa, il cameriere gli annunziò che il principe Anatol Vasilievich era dalla contessa. Il salotto della contessa era pieno di gente. Pierre, senza salutare la moglie, che non aveva visto dopo il suo arrivo, in quel momento ella gli era più odiosa che mai, entrò nel salotto e, visto Anatol, gli andò vicino. «Ah, Pierre!» disse la contessa, avanzandosi verso il marito. «Non sai in che situazione è il nostro Anatol?» Ma si fermò, riconoscendo nella testa abbassata del marito, nei suoi occhi scintillanti, nella sua andatura risoluta, quella terribile espressione di collera e di forza che ella conosceva e della quale aveva fatto esperienza dopo il duello con Dolokhov. «Dove siete voi, c'è la corruzione e il male», disse Pierre alla moglie. «Anatol, andiamo!» «Ho bisogno di parlare con voi», disse egli in francese. Anatol gettò uno sguardo alla sorella e si alzò docilmente, pronto a seguire Pierre. Pierre, presolo per un braccio, lo tirò verso di sé e si avviò per uscire. «Si vous vous permettez dans mon salon?» disse Hélène sottovoce, ma Pierre, senza risponderle, uscì dalla stanza. Anatol gli andò dietro con la sua solita andatura alla brava, ma sul suo viso era visibile una certa inquietudine. Entrati che furono nel suo studio, Pierre chiuse la porta e si rivolse ad Anatol senza guardarlo. «Voi avete promesso alla contessina Rostova di sposarla e volevate rapirla?» «Mio caro», rispose Anatol in francese, «io non mi credo obbligato a rispondere a domande fattemi in questo tono». Il viso di Pierre, che già prima era pallido, si sfigurò dal furore. Con la sua grossa mano prese Anatol per il colletto dell'uniforme e cominciò a scuoterlo di qua e di là finché il viso di Anatol non ebbe preso una sufficiente espressione di paura. «Quando io dico che ho bisogno di parlare con voi», ripeté Pierre. «Via, questo è stupido». «Eh?» disse Anatol, sentendo sotto le dita che un bottone del colletto era stato strappato col suo pezzo di panno. «Siete un mascalzone e una canaglia, e non so chi mi trattenga dal piacere di rompervi la testa». E prese in mano un pesante fermacarte e lo sollevò in atto minaccioso, ma subito lo rimise al suo posto. «Le avevate promesso di sposarla?» «Io non pensavo. Del resto non ho mai promesso perché...» Pierre l'interruppe. «Avete lettere di lei?» «Avete lettere?» ripete Pierre, avanzando verso Anatol. Anatol lo guardò e subito, mettendo una mano in tasca, ne trasse il portafogli. Pierre prese la lettera che gli veniva tesa. «Je ne serai pas violent, ne craignez rien», disse Pierre, rispondendo a un gesto di spavento di Anatol. «Le lettere, E una, disse Pierre, come se ripetesse fra sé una lezione. Secondo, domani dovete partire da Mosca. Terzo, non dovete mai dire una parola su ciò che c'è stato fra voi e la contessina. Questo lo so, non posso proibirvelo, ma se avete un briciolo di coscienza... Pierre fece alcuni giri per la stanza, in silenzio. Anatole s'era seduto accanto alla tavola e, aggrottando le sopracciglia, si mordeva le labbra. Voi non potete non capire che oltre il vostro piacere c'è la felicità, la quiete dell'altra gente, che voi rovinate tutta una vita perché avete voglia di divertirvi. Sollazzatevi con le donne della specie di mia moglie. Con quelle siete nel vostro diritto. Esse sanno che cosa volete da loro. Sono armate contro di voi, della stessa esperienza di corruzione. Ma promettere a una fanciulla di sposarla è ingannare, rubare. Come non capite che è una vigliaccheria, come battere un vecchio o un bambino? Pierre tacque e guardò Anatole. Non lo so e non lo voglio sapere, disse guardando Pierre con un leggero tremito della mascella inferiore. Ma voi mi avete detto certe parole, come vigliaccheria e simili, che io, come uomo d'onore, non posso permettere a nessuno. Pierre lo guardò con sorpresa, senza essere in grado di capire che cosa volesse. Beh, volete soddisfazione? Disse Pierre ironico. Almeno ritirate le vostre parole, eh? Se volete che aderisca al vostro desiderio, eh? Le ritiro, proferì Pierre, e vi prego di perdonarmi. Involontariamente Pierre guardò il bottone strappato. E se avete bisogno di denari per il viaggio? Anatole sorrise. Questa espressione, dal sorriso timido e vigliacco che Pierre conosceva per averla veduta a sua moglie, lo rivoltò. Razza vigliacca e senza cuore, disse e uscì dalla stanza. Il giorno dopo, Anatole partì per Pietroburgo. Pierre andò da Maria Dmitrievna per riferirle che il suo desiderio che Kuragin fosse allontanato da Mosca era stato soddisfatto. Tutta la casa era nel timore e nell'agitazione. Natasha era molto ammalata e, come Maria Dmitrievna confidò in segreto a Pierre, nella stessa notte in cui le avevano detto che Anatole era sposato, si era avvelenata con dell'arsenico che si era procurato di nascosto. Adesso era fuori pericolo, ma era tuttavia così debole che era impossibile pensare a trasportarla in campagna ed era stata mandata a chiamare la contessa. Pierre vide il conte tutto sconvolto e Sonia rossa di pianto, ma non poté vedere Natasha. Il principe Nikolai Andreevich, per mezzo di Mademoiselle Bourienne, sapeva di tutte queste voci che correvano per la città e aveva letto il biglietto diretto alla principessina Maria nel quale Natasha rifiutava il suo fidanzato. Egli si mostrava più allegro del solito e aspettava il figlio con grande impazienza. Alcuni giorni dopo la partenza di Anatole, Pierre ricevette un biglietto del principe Andrei che l'informava del suo arrivo e lo pregava di andare da lui. Pierre si aspettava di trovare il principe Andrei presso a poco nello stesso stato nel quale era Natasha e perciò fu sorpreso quando, entrato nel salotto, udì dallo studio la voce sonora del principe Andrei che parlava animatamente di un intrigo di Pietroburgo. La voce del vecchio principe e un'altra voce li interrompevano di tanto in tanto. La principessina Maria uscì incontro a Pierre e la sospirò, accennando con gli occhi alla porta dove era il principe Andrei, desiderando evidentemente esprimere la sua simpatia a quel dolore. Ma Pierre si accorgeva dal viso della principessina Maria che era contenta di quello che era accaduto e del modo come suo fratello aveva preso la notizia del tradimento della sua fidanzata. Pierre entrò nello studio. Il principe Andrei, molto cambiato ed evidentemente rimesso in salute, ma con una nuova ruga che gli traversava la fronte, in mezzo alle sopracciglia, vestito in borghese, stava in piedi di faccia al padre e al principe Meschersky, discutendo con calore e gesticolando energicamente. Il discorso si aggirava intorno a Speransky. La notizia del suo esilio improvviso e del suo preteso tradimento era giunta allora allora a Mosca. «Ora lo giudicano e lo condannano tutti coloro che un mese fa lo esaltavano», diceva il principe Andrei. E quelli che non erano in grado di capire i suoi propositi. Giudicare un uomo caduto in disgrazia e scaricargli addosso tutti gli errori degli altri è molto facile, ma io dico che se qualche cosa di bene si è fatto durante questo regno, tutto questo bene è stato fatto da lui solo. Si fermò, vedendo Pierre. Il suo viso ebbe un tremito e subito ebbe un'espressione cattiva. e i posteri gli renderanno giustizia, concluse, e subito si rivolse a Pierre. Ebbene, come stai? Sempre più grosso, disse con vivacità, ma la nuova ruga si incise anche più profondamente sulla sua fronte. Sì, io sto bene, rispose alla domanda di Pierre e sorrise. A Pierre pareva chiaro che quel sorriso voleva dire «sto bene, ma non auguro a nessuno la mia salute». Quando il principe Meschersky se ne fu andato, il principe Andrei prese a braccetto Pierre e lo condusse nella camera che gli era stata preparata. Nella stanza c'era un letto disfatto e c'erano delle valigie e delle casse aperte. Il principe Andrei andò verso una di queste e prese una scatola. Dalla scatola trasse un pacco di carte. Fece tutto ciò in silenzio e assai rapidamente. Si rialzò e tossì. Aveva il viso corrugato e le labbra contratte. «Scusami se ti do questo disturbo». Pierre capì che il principe Andrei voleva parlare di Natasha e il suo largo viso prese un'espressione di compatimento e di simpatia. Questa espressione del viso di Pierre irritò il principe Andrei. Risolutamente, a voce alta e con asprezza, continuò. «Sono stato rifiutato dalla contessina Rostova e mi sono giunte voci che abbia chiesto la sua mano tuo cognato o qualcosa di simile. È vero?» «È vero e non è vero», cominciò Pierre, ma il principe Andrei l'interruppe. «Ecco le sue lettere e il suo ritratto», disse. Prese il pacco di carte dalla tavola e lo consegnò a Pierre. «Da questo alla contessina, se la vedi». «È molto malata», disse Pierre. «Dunque è ancora qui?» disse il principe Andrei. «E il principe Kuragin?» domandò poi in fretta. «È partito da un pezzo. Lei è stata in punto di morte». «Mi rincresce molto della sua malattia», disse il principe Andrei, ed ebbe un sorriso freddo, cattivo, spiacevole, come quello di suo padre. «Ma il signor Kuragin, per conseguenza, non ha degnato della sua mano la contessina Rostova?» disse Andrei, e tirò su più volte col naso. «Lui non poteva prendere moglie perché è ammogliato», disse Pierre. Il principe Andrei rise in modo spiacevole, ricordando di nuovo il padre. «E si può sapere dove si trova ora vostro cognato?» «È andato a Pietro... del resto non lo so», disse Pierre. «Beh, mi è indifferente», disse il principe Andrei. «Dì alla contessina Rostova che ella era ed è assolutamente libera e che io le desidero ogni bene». Pierre prese in mano il pacco di lettere. Il principe Andrei, come pensando se dovesse dire qualche altra cosa o aspettando che dicesse qualcosa Pierre, lo guardò fisso. «Sentite, ricordate la nostra discussione a Pietroburgo?» disse Pierre. «Ricordate?» «Mi ricordo», rispose in fretta il principe Andrei. «Io dissi che si deve perdonare alla donna caduta, ma non dissi che posso perdonare io. Io non posso». «Ma sono cose che si possano paragonare?» disse Pierre. Il principe Andrei lo interruppe e gridò brusco. «Già, chiedere di nuovo la sua mano, essere magnanimo e cose simili? Sì, questo è molto nobile, ma se tu vuoi essermi amico, non mi parlare mai di questo, di tutto questo. Su, addio, dunque gliele darai?» Pierre uscì e andò dal vecchio principe e dalla principessina Maria. Il vecchio sembrava più vivace del solito. La principessina Maria era come sempre, ma sotto alla simpatia per il fratello, Pierre vedeva in lei la contentezza che il matrimonio del fratello fosse andato a monte. Guardandoli, Pierre capì quanto disprezzo e quanta ostilità avessero tutte e due verso i Rostov. Capì che era impossibile davanti a loro pronunziare perfino il nome di colei che aveva potuto lasciare il principe Andrei per un altro qualsiasi. A pranzo il discorso si aggirò intorno alla guerra, che evidentemente si avvicinava. Il principe Andrei non cessò di discorrere e discutere, ora col padre, ora con Dessalles, il precettore svizzero, e sembrò più animato del solito, di quell'animazione di cui Pierre conosceva così bene la cagione morale. Quella stessa sera Pierre andò dai Rostov per adempiere al suo mandato. Natasha era a letto, il conte era al club e Pierre, dopo aver dato le lettere a Sonia, andò da Maria Dmitrievna, che si interessava di sapere come il principe Andrei avesse accolto la notizia. Dopo 10 minuti Sonia entrò da Maria Dmitrievna. «Natasha vuole assolutamente vedere il conte Piotr Kirillovich», disse. «Ma come? Si deve portarlo in camera sua?» «Là, da voi c'è tutto in disordine», disse Maria Dmitrievna. «No, no, si è vestita ed è andata nel salotto», disse Sonia. Maria Dmitrievna si strinse nelle spalle. Natasha, smagrita, con un viso pallido e severo, stava ritta in mezzo al salotto. Quando Pierre apparve sulla soglia, ella fece una mossa frettolosa, come indecisa se andargli incontro o aspettarlo lì. Pierre le si avvicinò rapidamente. Credeva che gli avrebbe dato la mano, come sempre, ma ella, avvicinatasi, si fermò e respirò affannosamente, lasciando cadere le braccia inerti, proprio in quella posa che prendeva in mezzo al salone per cantare, ma con un'espressione tutta diversa. Piotr Kirillovich, cominciò a dire affrettatamente, il principe Balkonski era vostro amico, è ancora vostro amico. Si corresse, le pareva che tutto fosse stato e che ora tutto fosse differente. Mi disse allora di rivolgermi a voi. Pierre la guardava in silenzio, respirando forte. Fino allora dentro di sé l'aveva rimproverata e s'era sforzato di disprezzarla, ma ora sentì tanta pietà di lei che nella sua anima non ci fu più posto per il rimprovero. Ora è qui, ditegli che mi perdoni. Si fermò e il suo respiro si fece ancora più frequente, ma non pianse. Sì, glielo dirò, proferì Pierre, ma non sapeva che cosa dire. Natasha si spaventò, certo, del pensiero che poteva essere venuto a Pierre. No, no, lo so che tutto è finito, disse in fretta. No, questo non potrà essere mai. Mi tormenta solo il pensiero del male che gli ho fatto. Ditegli soltanto che lo prego di perdonarmi, perdonarmi, perdonarmi per tutto. E cominciò a tremare in tutto il corpo e sedette su di una sedia. Un senso di pietà ancora non mai provato riempì l'anima di Pierre. Gli dirò tutto ancora una volta, disse Pierre, ma vorrei sapere soltanto una cosa. Sapere che? Domandò lo sguardo di Natasha. Vorrei sapere se avete amato. Pierre non sapeva come chiamare Anatole e arrossì pensando a lui. Se avete amato quel cattivo uomo. Non lo chiamate cattivo, disse Natasha, ma io non so nulla, nulla. E cominciò a piangere. E un senso ancora più forte di pietà, di tenerezza, di amore prese Pierre. Sentiva sgorgare le lacrime sotto gli occhiali e sperava che non sarebbero state osservate. Non ne parliamo più, amica mia, disse Pierre. Come sembrò strana a un tratto a Natasha quella sua voce così gentile, tenera, profonda. Non ne parliamo più, amica mia. Io gli dirò tutto. Di una cosa soltanto vi prego. Consideratemi come un amico. E se avete bisogno di aiuto, di consiglio, o semplicemente bisogno di sfogarvi con qualcuno, non adesso, ma quando tutto sarà chiaro dentro di voi, ricordatevi di me. Egli le prese la mano e la baciò. Io sarò felice se riuscirò a... Pierre si confuse. Non parlate così con me, non lo merito, esclamò Natasha, e voleva andarsene, ma Pierre la trattenne per il braccio. Egli sapeva che doveva dirle ancora qualche cosa, ma quando lo disse si meravigliò delle sue stesse parole. Smettetela, smettetela, avete tutta la vita davanti a voi, le disse. Davanti a me, no. Per me tutto è perduto, ella disse, vergognosa e umiliata. Tutto perduto, ripeté egli. Se non fossi quello che sono, se fossi l'uomo più bello, più intelligente e migliore del mondo, e se fossi libero, chiederei subito, in ginocchio, la vostra mano e il vostro amore. Natasha, per la prima volta dopo molti giorni, pianse lacrime di gratitudine e di tenerezza, e gettando un'occhiata a Pierre, uscì dalla stanza. Pierre, subito dopo di lei, scappò di corsa in anticamera, trattenendo le lacrime di tenerezza e di gioia che gli stringevano la gola. Si mise la pelliccia senza riuscire a trovare le maniche e montò in slitta. Era un tempo ghiacciato e chiaro. Sulle strade fangose e mezzo buie, sui tetti neri, c'era un cielo scuro e stellato. Pierre, soltanto a guardare il cielo, non sentiva più l'offensiva bassezza di tutte le cose della terra, a paragone dell'altezza dove si trovava l'anima sua. All'entrata della piazza di Arbat, un enorme spazio di cielo stellato e scuro apparve agli occhi di Pierre. Quasi a metà di quel cielo, sopra il corso Prečistenski, circondata, avvolta da tutte le parti di stelle, ma distinguendosi da tutte per la sua vicinanza alla terra, la sua luce bianca e la lunga coda levata in alto, c'era l'enorme, luminosa cometa del 1812, quella stessa cometa che annunziava, come dicevano, ogni sorta di sventure e la fine del mondo. Ma in Pierre, questa splendida stella, con la sua lunga coda raggiante, non risvegliava nessun senso di paura. Al contrario, Pierre, con gli occhi umidi di lacrime, guardava quella stella lucente che, dopo aver percorso con indicibile rapidità spazi incommensurabili secondo una linea parabolica, a un tratto, come una freccia che si affonda nella terra, pareva essersi infissa in quel punto da essa scelto nel cielo nero ed essersi fermata, sollevando energicamente la coda, scintillando e giocando con la sua bianca luce fra le innumerevoli altre stelle sfavillanti. A Pierre parve che quella stella rispondesse pienamente a ciò che era nella sua anima, raddolcita e fortificata, che si schiudeva ad una nuova vita. Guerra e pace di Lev Tolstoi. Traduzione di Enrichetta Carafa d'Andria per le edizioni Einaudi. Una lettura di Sandro Lombardi, musicata da Paolo Terni, a cura di Laura Palmieri. Il terzo anello @rai.it